get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera e ben sintonizzate. Siamo di nuovo qui a farci reciproca compagnia. Quella che ascolterete tra poco è la nostra 169esima trasmissione ed oggi qui in studio siamo Rosina. Ciao. Ciao. Ciao, Rosina, che è un attimo distratta ma vi garantisco che è qui con me. Monica, che è la sottoscritta, e alle apparecchiature Annalisa. Ciao a tutte. Allora, abbiamo voluto intitolare la trasmissione di oggi Insalata di fine autunno. Che ne dite? Hai visto? Perché questo è l'effetto che ci fa la gazzarra che ha accompagnato la campagna elettorale quando essa ha osato toccare la questione spinosa e fastidiosa dell'unione di fatto. Un insieme apparentemente caotico, ma in realtà a nostro parere ben selezionato e condito di interventi, esternazioni, liti e quant'altro. Ben intenzionato soprattutto a far proprio ogni pur minimo spiraglio di vantaggio anche a scapito dell'affettività, della sensibilità, dei vissuti, delle soggette e dei soggetti. Naturalmente ci aspettiamo numerose come sempre le vostre considerazioni. Vi ricordiamo che avete sempre la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di un SMS al nostro numero cellulare che è, prendete nota con carta e penna, 338-41-46-682. Però, visto che forse un messaggio potrebbe essere troppo sintetico, vi ricordiamo che potete come sempre scriverci indirizzando la vostra mail a contatti@clrbp.it, oppure potete scriverci, se amate ancora questi metodi tradizionali di comunicazione di massa, a CLR presso Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. E adesso passo la parola alla nostra splendida Annalisa che ci farà la prima proposta musicale. Sì, stasera partiamo con Miriam Makeba con The Lion Cries o Mumbube. Yeah. did I march to the war? Did you know that? Was I to the war? Allora, come dicevamo, dunque, un autunno davvero caldo fra schiamazzi, gazzarre varie che hanno accompagnato le recenti esternazioni governative, non governative, su omosessualità, aborto, pillole, sangue infetto e tanti altri valori sacrosanti come il matrimonio, naturalmente, rigorosamente eterosessuale, in prima linea per tutti. Così anche noi del CLR non possiamo fare a meno di occuparci di Pax, noi che tra l'altro, come voi ben sapete, abbiamo una posizione piuttosto critica nei confronti dei cosiddetti patti civili di solidarietà e nonché del matrimonio gay, perché preferiamo appunto di gran lunga batterci per i diritti di tutte le singole e di tutti i singoli in un paese che sia possibilmente democratico, pluralista, laico e rispettoso delle differenze. Stiamo sognando naturalmente, visti i recenti fuochi d'artificio in merito alla questione. E allora, visto che si parla di fuochi d'artificio, si dia fuoco alle polveri che, come è noto, si sono accese con le infelici, oserei dire, affermazioni del leader quasi indiscusso del centrosinistra Romano Prodi, il quale è sventurato ai primi di settembre in una lettera a Franco Grillini, presidente dell'Arcigay e anche deputato dei DS, dichiarava di voler destinare una parte del suo programma politico ad una apertura, ad una sanatoria per le coppie di fatto. Alla lupa naturalmente, che si tenti di introdurre surrettiziamente in Italia i Pax o peggio ancora il matrimonio gay e lesbico, apriti cielo. E infatti il cielo non ha tardato ad aprirsi, tanto che Prodi si è alla fine quasi rimangiato tutto in una intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, nel quale appunto afferma, ve lo leggo testualmente: nessuno vuole, può, non io certamente, conformare i nuovi modelli di convivenza all'istituto familiare. Non ho mai sostenuto la opportunità e la possibilità di matrimoni tra persone dello stesso sesso, né è mia intenzione proporre provvedimenti che mettano minimamente in discussione la famiglia. Ho sempre ritenuto che la famiglia fosse la prima, più originaria e fondamentale comunità naturale. E infatti l'articolo 29 della nostra Costituzione recita: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e a garanzia della unità familiare. Ma noi naturalmente sappiamo bene quanto sia naturale la comunità familiare, soprattutto quanto sia protettiva e formativa dell'individualità. Infatti non ci sono abusi sessuali da parte di padri, ad esempio, nei confronti dei figli o dei figli, non ci sono violenze domestiche fra i partner, non esiste alcuna percentuale di omicidi in famiglia, di suicidi di bambini e così via. Ma su questo naturalmente torneremo in una prossima trasmissione, magari per avere dei dati più precisi. E adesso magari Annalisa ci metterà un pezzo musicale, una cosa allegra. Una cosa allegra? Quella che io posso cambiare. No, mandaci quella che dici. No, per te figurati, subito un cambio programma. Una cosa allegra dopo queste simpatiche cose. Allora, per voi aspetta che mo la devo scegliere però. Everything di Alanis Morissette. Preciso. I can be a nightmare of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen, and you never met anyone who's as positive as I am sometimes. You see everything, you see. Ringraziamo i trilini che cominciano ad arrivare, quindi ne approfitto subito per ricordarvi che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo quindi chi ci ascolta via internet e ci farebbe molto piacere sapere da quale città ci state ascoltando. Se invece siete di Roma o dintorni, gradiremo sapere da che zona e come e qual è la qualità del segnale che ricevete. Per fare tutto questo, naturalmente, potete usare il numero del nostro cellulare per gli SMS. Lo ripeto, 338-41-46682. E riprendiamo il filo del nostro discorso. Intanto cominciamo col chiederci cosa sono questi PAX e cos'è il matrimonio gay. Ce lo spiegano soprattutto le normative che sono state adottate rispettivamente in Francia e in Spagna. Si chiama PAX, lo abbiamo già detto, il patto di solidarietà civile, non è un matrimonio, ma è un accordo legale tra persone che non necessariamente debbono appartenere allo stesso sesso. È stato creato in Francia nel 1999 e la legge francese riconosce a due persone, etero o omo, non è specificato, molti diritti che però sono connessi con il matrimonio, come il diritto dovere alla reciproca solidarietà materiale, per esempio. Il PAX prevede la possibilità di lasciare eredità al partner, il vincolo a interpellare il partner da parte dei medici in caso di malattia dell'altro, la pensione di reversibilità, la possibilità di subentro nell'affitto dell'abitazione. Invece la norma sostenuta dal governo Zapatero consente il matrimonio tra omosessuali. Il Parlamento spagnolo infatti ha approvato la nuova legge che legalizza l'unione civile tra omosessuali, equiparandola a quella tradizionale. Come sappiamo, il provvedimento è stato votato il 30 giugno 2005 e rivoluziona proprio l'istituto delle nozze, stabilendo che le unioni gay hanno lo stesso status di quelle eterosessuali, con tutti i diritti che ne conseguono. Quindi eredità, pensione e soprattutto adozione di bambini, che i PAX invece non prevedono. Naturalmente anche in questi luoghi civili d'Europa i provvedimenti relativi a PAX e matrimoni sono stati accolti con titubanze, con incertezze. In Spagna, per esempio, la legge approvata sotto il governo Zapatero, che sviluppava, come sappiamo, già un'iniziativa del popolare Aznar, è stata fortemente contestata. Ci sono stati addirittura casi in cui i giudici hanno bloccato la celebrazione di matrimoni omosessuali, proprio sollevando la questione di incostituzionalità, per esempio nelle Canarie e nella regione valenziana, con la medesima motivazione, vale a dire la riforma del codice civile che sostituisce all'espressione marito e moglie il termine coniugi non sarebbe compatibile con la Costituzione, che invece prevede solo il matrimonio fra uomo e donna. Si tratta però di prese di posizione isolate, infatti nonostante gli intoppi il matrimonio omosessuale comincia a prendere piede in Spagna, soprattutto, come è ovvio, nelle grandi città. Addirittura in Catalogna la pioggia di richieste ha costretto il Tribunale Supremo a chiedere più risorse finanziarie e più funzionari proprio per evitare i ritardi e l'accumularsi delle pratiche. Ci sono stati matrimoni gay a Barcellona, Madrid, a Valencia e in Andalusia, mentre resta in ritardo tutto il resto del paese, diciamo il paese nord, della zona nord. Niente matrimoni gay, proprio in Galizia, nell'Asturia e nei Paesi Baschi. E noi ci chiediamo, sarà un caso che siano quelle zone vicine ad uno dei famosi e tradizionali cammini cattolici, quello di Santiago di Compostela? Ma in Italia? In Italia esiste qualcosa di analogo? Si è mai pensato a qualcosa di analogo? Bene, dopo l'iniziativa del 1997, la prima proposta in Italia si è avuta nel 2002, con un disegno di legge che allora univa tutto il centro-sinistra, e questa legge che ha iniziato un lungo iter, poi nel tempo è diventato un insieme di 9 proposte bipartisan sulle quali appunto il Parlamento sta discutendo dal 2004, quindi da circa un anno. Firmatari dei testi sono stati i deputati di DS, di Forza Italia, del Partito della Rifondazione, dei Comunisti Italiani, dello SD, del Nuovo Partito Socialista e Alternativa Sociale. Unica assente giustificata la Lega e fuori dal Parlamento ovviamente le gerarchie ecclesiastiche. Quali diritti prevede questa iniziativa? Allora, innanzitutto la regolazione del regime patrimoniale degli acquisti comuni. Poi l'attribuzione dei diritti e doveri di mutua assistenza morale e materiale, il riconoscimento al partner dello Stato di erede legittimo, il diritto di soggiorno al partner estero, straniero, la pensione di reversibilità quando la convivenza abbia avuto la durata di almeno 3 anni, l'estensione al partner dell'assistenza sanitaria. Inoltre, ancora il diritto di visita in ospedale e in carcere, il diritto di successione nel contratto di affitto e la facoltà di prendere, questa molto importante, decisioni in caso di malattia del partner. Inoltre abbiamo un'iniziativa di tipo regionale, perché l'assessore al bilancio della Regione del Lazio, Luigi Nieri, di Rifondazione Comunista, ha varato una proposta per estendere anche alle coppie gay alcuni servizi. Ci sono alcuni punti nodali in questa proposta, esattamente 4. Il primo è l'abrogazione della legge regionale numero 32, che era stata approvata dalla giunta Storace e che prevedeva il sostegno alle sole unioni sancite dai matrimoni, quindi soltanto in caso di matrimonio costituzionalmente riconosciuto, diremo noi. Secondo punto, lotta alla discriminazione nei luoghi di lavoro. Terzo punto, libero accesso ai servizi minimo essenziali ed infine il sostegno economico per qualsiasi nucleo sociale svantaggiato, che fosse valutato esclusivamente su indicatori economici e non naturalmente sulle scelte di vita che vengono effettuate. Naturalmente dal centrodestra è stata subito polemica nei confronti di questa iniziativa, tant'è che la proposta di Nieri è stata definita come una proposta che minaccia di togliere aiuti ai coniugi che invece hanno costruito una famiglia fondata sul solido matrimonio, cellula base, come abbiamo detto, della società. Nieri quindi è stato addirittura accusato di seguire la cosiddetta deriva zapaterista lanciata da Prodi, naturalmente, per attaccare il cosiddetto istituto della famiglia. Ma ora prendiamoci una pausa dopo questa densissima dissertazione. La parola alla nostra Annalisa, come al solito. Sì, allora, nel ringraziare i primi messaggini che stanno arrivando, Giova che ci ascolta, pensate, da Torre Maura, poi c'è Gio che invece ci dice complimenti per la trasmissione, un bacio a Gio. Per dopo, siccome ci chiama Ola Guape, che lei ama la Spagna, metteremo qualcosa attinente, e la spagnola. Allora, io adesso esaudisco una richiesta che ci è venuta fatta tramite mail da Valentina, che io saluto molto molto affettuosamente, insomma è una persona importante, è stata importante per me, un bacione, che ci suggerisce una canzone di Fiorella Mannoia che è Piccola Serenata Diurna. Quindi per lei e per tutte voi, Piccola Serenata Diurna. Si vive in un paese libero e in questa terra, in questo istante sono felice, mi sento grande, ho un amore sincero che amo e mi chiede poco, ma così poco che non è uguale, o forse sì, e se non basta ancora poco a poco disco e rifaccio abitando il tempo come conviene ad un uomo attento, sono felice, sono così felice da chiedere perdono per questo giorno della mia felicità. Sono felice, sono così felice, chiedo che mi perdoni chi ha pagato per la mia felicità. Sono sono felice, sono così felice da chiedere perdono per questo giorno della mia felicità. Sono felice, sono così felice, chiedo che mi perdoni chi ha pagato per la mia felicità. Mettiti proprio. Ecco. Ecco, il microfono come al solito era spento. Dicevo, ringraziamo Annalisa per aver mandato questa bella canzone che ci ha, come dire, arrotolato il cuore su se stesso. E ringraziamo naturalmente le nostre ascoltatrici che ci hanno mandato messaggio. Luisa e Marina, grazie per averci contattate. E intanto continuiamo con la nostra, con il nostro discorso. Dunque, per quale motivo si parla tanto in questo periodo di Pax e di tutte queste, queste cose? Noi pensiamo di poter condividere l'analisi che Carla Casolini fa sul manifesto di mercoledì 14 settembre, un po' datato, ma direi che nonostante tutto è ancora piuttosto attuale. Sostiene la Casolini: la questione del riconoscimento dei diritti civili delle individue e degli individui che intrattengono rapporti di convivenza come coppie di fatto si adagia nell'alveo del più blando riformismo, ben accoglibile da destra e da sinistra. Che in Italia oggi questo riesca ad assurgere a tema di scandalo è dovuto sicuramente alla bellicosità della campagna elettorale già iniziata, con l'uso strumentale di qualsiasi tema che possa essere scagliato contro l'avversario, e al prurito di media in cerca di audience, cui il tema pare goloso per le sue frange di gossip. Ma è certamente l'assalto clericale, l'ideologia fondamentalista ispirata dal nuovo Papa a dare legittimità al tutto. Però, che cosa pensa il cosiddetto popolo bue dei Pax? In linea generale, gli italiani, secondo l'indagine dell'Atlante politico Demos Eurisco, esprimono disponibilità verso una norma che sulla scia dei Pax francesi estenda ai legami di convivenza una parte delle garanzie e dei diritti prerogativa del matrimonio, del vincolo matrimoniale. Quindi il 64% degli intervistati su un campione di 1542 persone, scusate, si schiera a favore di un provvedimento di questa natura. Anche all'interno dell'elettorato di centrodestra, ma soltanto il 31% del campione ritiene invece che l'accesso a unioni di questo tipo dovrebbe essere garantito a persone dello stesso sesso. Di questa ostinata chiusura è segno anche l'imbarazzo con cui i telegiornali hanno seguito le vicende, facendo quello che Gianni Rossi Barilli sulle pagine del manifesto, sempre del 14 settembre, ha definito dei veri e propri salti mortali, per non parlare degli omosessuali. Vi leggiamo il pezzo. I salti mortali dei TG nazionali, per non parlare degli omosessuali. Perfino quando le coppie gay e lesbiche diventano una notizia politica del giorno, bisogna usare una certa cautela nel porgerla al pubblico televisivo, per non sconvolgere le ignare famiglie con la F maiuscola in ascolto all'ora di cena, e magari anche per evitare gragnuoli di proteste di parte clericale, come avvenne a proposito del famoso World Pride giubilare del 2000. Così si lamenta il deputato di S Franco Grillini, primo firmatario della legge sui patti civili di solidarietà. Anche lunedì sera i telegiornali non hanno brillato per spigliatezza e completezza dell'informazione, e in particolare, guarda caso, i TG di Stato, che hanno dato grande risalto a che cosa pensa dei Pax l'Osservatore Romano. Fresco di zapping, Grillini è furioso. Che si dia tanto risalto all'opinione del giornale del Vaticano, dice, è già di per sé significativo. Se poi contemporaneamente, in disprezzo di qualunque minima regola del dibattito democratico, a nessun direttore di giornale viene l'idea di dare la parola nemmeno per un secondo al rappresentante di qualche associazione gay o lesbica, mi sembra che del tutto è appropriato parlare di censura. D'altro canto, ci siamo abituati. A fine giugno, quando è stata approvata in Spagna la legge sui matrimoni omosessuali, i TG sono riusciti nella difficile impresa di trattare per giorni la questione senza mai dare la parola ad esponenti del movimento omosessuale, né spagnoli né italiani. Ho protestato più volte con la commissione di vigilanza RAI, ma se devo giudicare dai risultati non ho ottenuto molto. Eppure non sempre i telegiornali della TV pubblica sono così britannici sul tema dell'omosessualità. In luglio, per esempio, quando fu assassinato in Calabria il sindacalista Michele Presta, il movente omosessuale del fattaccio fu ampiamente sbandierato dalla informazione televisiva, utilizzando espressioni come torbida vicenda o squallida storia. Anche allora ci fu una vibrata protesta da parte dell'associazione GLBT e anche una discussione ad hoc della commissione di vigilanza, che perlomeno ebbe il risultato di far cambiare in corsa la linea editoriale del TG2 sull'argomento. Ma trasmetterla di usare stereotipi linguistici da anni 50 e parlare di omosessualità come una cosa rispettabile, ce ne corre. E infatti lunedì sera l'imbarazzo del TG1 è stato tale, puntualizza Grillini, da ribaltare il senso della notizia principale, e cioè che Prodi si era espresso a favore dei PACS. Il TG1, facendo confusione tra matrimonio e PACS, ha concluso che Prodi era contrario alle unioni gay. Petruccioli, se ci sei, batti un colpo, si dice il giornalista. La censura o l'imbarazzo ha assunto però dimensioni titaniche quando i TG di prima serata sono stati costretti sabato scorso, a dare la notizia del Leone d'Oro attribuito dalla giuria del Festival di Venezia al film di Ang Lee, Brokeback Mountain. Si tratta infatti di un'opera che parla dell'amore omosessuale tra due rudi cowboy americani. La radio online ReteGay.it si è presa la briga di confezionare un servizio di 2 minuti e mezzo, mettendo insieme i brevi accenni dell'edizione serale di TG1, TG2 e TG5 al fatto. Il migliore è risultato il TG5 con ben 14 secondi dedicati al vincitore del Leone d'Oro, seguito dal TG2 con 13 secondi. In entrambi i casi si è almeno detto che il film parlava di una storia gay. Il TG1 invece si è limitato a soli 3 secondi, giusto per citare nome del regista e titolo del film. C'è altro da dire? Complimenti al TG1. Addirittura si è dimostrato più liberal Gianfranco Fini, niente meno, al quale... Proprio per questo la ministra Prestigiacomo auspica addirittura che venga affidata la delega per le pari opportunità. Secondo Gianfranco Fini è giusto rimuovere eventuali discriminazioni che negano i diritti individuali e personali dei cittadini che danno vita ad un'unione di fatto. A fare da contraltare naturalmente arrivano le dichiarazioni del ministro delle riforme, il leghista Calderoli, quel santuomo, secondo il quale le coppie di fatto sono un atto contro natura e rappresentano il primo passo verso la dissoluzione di una società fondata sui lavori. E continua: non pensavo veramente che per un pugno di voti dell'altra sponda si potesse cadere così in basso. Non ci meraviglia naturalmente il bon ton di questo individuo. Ma certamente non sfugge a nessuno e a nessuno che in realtà quello che anima queste posizioni così pervicacemente oltranziste è anche alla base di tutta un'altra serie di azioni contrastanti degli ultimi giorni, come ad esempio l'attacco del sinodo dei vescovi contro l'aborto, l'interruzione peraltro inefficace della sperimentazione della pillola RU486, che tra l'altro adesso verrà avviata anche in Toscana, il caso del sangue infetto a Milano, la disposizione del Policlinico di Milano che non ammette appunto i donatori gay, l'anatema contro i politici che hanno posizioni abortiste e contro chi li vota, colpevoli entrambi di peccato mortale, e anche lo scandalo e la censura che hanno accompagnato la campagna pubblicitaria di Toscani per una nota ditta di abbigliamento. In fondo, come dimenticarlo, siamo in un paese cattolico, anzi abbiamo il Vaticano in casa e dentro il Parlamento, che ci dà indicazioni, suggerimenti e sostegni alle vacillanti coscienze dei nostri politici che attraversano evidentemente un lunghissimo momento di confusione mentale. Ad ogni modo vorremmo ricordare alcune delle ingerenze della Santa Sede nella vita politica italiana con l'aiuto di Eleonora Martini dal Manifesto, e ce lo leggerà Monica. Gay e famiglia, i no del Papa. Le tante ingerenze della Santa Sede nella vita politica italiana, di Eleonora Martini, come dicevamo. Dunque, dice la giornalista, dalla procreazione alla famiglia, dall'aborto, pillola RU486 compresa, all'no perentorio all'unione gay, senza dimenticare la difesa delle scuole cattoliche. Non è certo la prima volta che la Santa Sede interviene pesantemente nella vita politica italiana. Lo fece più volte Papa Wojtyla. Lo fa con maggiore determinazione Benedetto XVI, e la sferzata data lunedì dall'osservatore romano a Romano Prodi sui PACS non è poi una novità. Le unioni civili erano state infatti già bocciate dal cardinale Camillo Ruini durante la presentazione dell'ultimo libro di Joseph Ratzinger nel dibattito col presidente del Senato Marcello Pera. Ma cosa pensa sulla sessualità e contraccezione Ratzinger? Ebbe modo di chiarirlo fin da subito durante la cerimonia di insediamento a San Giovanni in Laterano il 7 maggio. La libertà di uccidere è una tirannia che riduce l'essere umano, citiamo, in schiavitù. No all'aborto e alla pena di morte, disse il pontefice, dimenticando però nella sua battaglia in difesa della vita di condannare la guerra. Pochi giorni dopo ha inizio la crociata astensionista al referendum sulla fecondazione assistita, che porterà al mancato raggiungimento del quorum grazie soprattutto al lavoro svolto dal solito Ruini. Il presidente della Conferenza Episcopale a Bari, per la chiusura del Congresso Nazionale Eucaristico il 27 maggio, chiama raccolte fedeli. Grazie per la testimonianza data, grazie per l'impegno attuale nel referendum e che alla fine è un impegno a favore di ciò che è proprio di ogni essere umano, che non può mai essere ridotto a mezzo ma rimane un fine. Ma è in occasione dell'assemblea della CEI del 30 maggio che Papa Ratzinger scende in campo personalmente esortando i vescovi. Siete impegnati a illuminare le scelte dei cattolici e di tutti i cittadini circa i referendum ormai imminenti sulla procreazione assistita. Qualche giorno dopo, il 6 giugno, durante il convegno diocesano sulla famiglia San Giovanni, a Roma, lancia il suo anatema e per 50 minuti si scaglia non solo contro aborto e fecondazione, ma anche contro divorzio, omosessuali e famiglie di fatto, e bolle e matrimoni omosessuali, come libertà anarchiche fondate sulla banalizzazione del corpo, che passa a sua volta per la banalizzazione dell'umano e che porta a far sì che ognuno possa fare ciò che vuole. La vittoria ottenuta con il referendum è solo l'inizio della campagna vaticana. Il 24 giugno, in occasione della prima visita al Quirinale, Benedetto XVI non perde l'occasione per ribadire i temi che gli sono cari. A Ciampi il Papa chiede impegni in difesa della famiglia fondata sul matrimonio, della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale e delle scuole cattoliche, non prima di aver rassicurato il Capo di Stato che la Chiesa intende svolgere la sua missione senza mire di potere, senza chiedere privilegi o posizioni di vantaggio sociale o economico. Lo stesso compendio al nuovo catechismo, presentato il 28 giugno, sposa l'assioma che lo Stato di diritto deve difendere gli embrioni e immorale è la fecondazione eterologa. Ultima battaglia per ora, quella per l'esposizione del crocifisso. Benedetto XVI la intraprende nell'omelia di Ferragosto e le sue parole, come al solito, sono un monito al governo. È importante, dice, che Dio sia presente nella vita pubblica, con segni della croce, nelle case e negli edifici pubblici. E come non essere d'accordo con lui? Passo la parola ad Annalisa. Ripetati amen. Amen. No. Allora, io saluto Lady Zapatera e Gio. E per loro quindi ci vuole un brano spagnolo, io direi, no? Certamente. Rosana, vista la cosa, che ce l'ho pronto. Ok, perfetto. Un bacio a tutte. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos, yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados. La alfombra y el alrededor acabarán de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. noche de amor desesperados, caigamos juntos siempre. Seremos uno. Olè. Ed eccoci di nuovo qui, ringraziamo le due stupende ascoltatrici che ci hanno chiamato dolci donzelle e ci ascoltano dal parco, e salutiamo ancora Kate che ci ha mandato un dolce messaggino di rimprovero. Allora, dunque, come abbiamo visto da quello che abbiamo detto finora, il nostro Prodi arriva ben ultimo alla fine di una serie di anatemi che colpirono anche cattolici che si sono impegnati in questo senso. Per esempio la cattolica Rosa Russo Iervolino, quando in Parlamento sul finire degli anni 90 stava lavorando al progetto di legge sulla procreazione assistita, e nello stesso modo il Vaticano e la CEI colpevolizzarono il cattolico Badaloni, allora era governatore del Lazio. Perché? Perché aveva osato varare una legge che estendeva certi aiuti anche all'unione di fatto. E come sappiamo pagò di persona, perché nell'aprile del 2000 perse i consensi dei cattolici e ovviamente le elezioni in favore di Storace. Qualsiasi voce dissenziente, quindi, anche se espressa goliardicamente, per esempio attraverso una bella e corposa pioggia di fischi, di cui per esempio è stato fatto segno, come sappiamo, il cardinale Camillo Ruini a Siena il 22 settembre scorso, viene neutralizzata, anche con ironica benevolenza, no? Perché Ruini, come sappiamo, ha reagito alla contestazione definendola nient'altro che un piacevole intermezzo. E rincara la dose Monsignor Betori, che è il segretario della CEI, il quale afferma che i vescovi continueranno a parlare serenamente, come chiede il Vangelo, senza lasciarsi intimidire, e prosegue: la Chiesa non verrà mai meno nell'esercizio del discernimento evangelico e della carità pastorale, al suo dovere di parlare in modo forte e chiaro per illuminare i credenti e tutti gli uomini di buona volontà, sia su materie che riguardano la fede e la vita ecclesiale, sia su temi di grande rilevanza morale, come la vita umana, la famiglia, la giustizia e la solidarietà. E qua amen, ci sta tutto. Ma perché in Europa la Chiesa ha un potere così forte? A noi sembra una bella spiegazione quella che Gustavo Zagrebelsky ha fornito sulle pagine di Repubblica il 5 ottobre scorso, e nel quale appunto egli sottolinea come in Europa è accaduta una cosa abbastanza singolare, cioè che la storia della Chiesa abbia finito per coincidere con la storia dell'identità europea. Dice l'opinionista: la civiltà europea come storia solo cristiana è un'idea onnivora, già a prima vista bizzarra. Eppure è proprio questo che gli apologeti della religione civile cristiana sostengono quando attribuiscono al cristianesimo la primogenitura in tutto ciò che oggi ci pare buono e bello. Si dice ad esempio che la democrazia, vanto dell'Occidente, non vive senza condizioni: fiducia reciproca, pari dignità degli esseri umani, senso di responsabilità, di giustizia, tolleranza e rispetto, che tutto ciò è ethos, etica cristiana, e che dunque la democrazia è figlia del cristianesimo. Così però si gioca l'equivoco. L'affermazione può valutarsi diversamente a seconda che per cristianesimo si intenda messaggio cristiano o storia della Chiesa. Limitiamoci a un esempio, dice l'opinionista, quello della tolleranza. Allora, la conversione è per antonomasia l'atto di libertà della coscienza, ma si chiede: chi oserebbe negare che nei secoli la Chiesa abbia invece piuttosto avversato la democrazia e appoggiato ogni sorta di autocrazia, che abbia praticato più l'imposizione che il rispetto delle coscienze? Chi potrebbe dimenticare la violenza di cui è stata dispensatrice in nome della fede che custodiva? Chi può avere la memoria così breve da ignorare che l'unica libertà riconosciuta è stata a lungo quella di aderire alla vera religione, e che ogni rivendicazione di libertà diversamente indirizzata è stato oggetto di dure condanne? E chi non potrebbe chiederselo? Ad esempio io non me lo chiederei, ma visto che me lo devo chiedere, me lo chiedo. Dunque, in realtà democrazia e cristianesimo, come abbiamo notato, non coincidono affatto. E ce lo continua a spiegare Zagrebelsky. Tutto sembra la stessa cosa, invece la dottrina laica dei diritti non è quella cattolica, come risulta da un punto cruciale. Per la prima, il limite dei diritti è l'uguale diritto altrui, per la seconda è l'ordine naturale giusto. La differenza è capitale: la prima dottrina mira alla libertà, la seconda alla giustizia. Valori diversi e in certi casi anche in conflitto, come constatiamo ad esempio a proposito del riconoscimento delle unioni al di fuori della famiglia tradizionale. Per gli uni non fanno male a nessuno, per gli altri comunque sono disordinate. E conclude l'autore con un bilancio piuttosto inquietante e forse un sogno impossibile. All'inizio del terzo millennio, Giovanni Paolo II ha ritenuto necessario chiedere perdono a Dio per una impressionante sequela di misfatti della Chiesa Cattolica, tutti dovuti a commistioni di fede e potenza mondana. È stata una missione di colpa rivolta al passato, ma nulla impedisce di ipotizzare che altre ammissioni domani dovranno ripetersi con riguardo al nostro presente, quando sarà anch'esso passato. Questa è umiltà cristiana. Sbagliare, compromettendo nell'errore lo spirito divino, oltre che se stessi, sarebbe invece il massimo dell'orgoglio. In breve, possiamo dire che la riduzione dell'identità a mera storia è una situazione tribale. La riduzione della storia europea a storia cristiana, un falso storico. La riduzione del cristianesimo a chiesa, un peccato contro lo spirito. Che cosa ne viene allora? Allora non limitiamoci a confrontarci su ciò che siamo stati, ma ragioniamo soprattutto di quello che vogliamo essere. Diamo al cristianesimo il posto che gli spetta nella storia spirituale europea, ma come un tutto, come parte di un tutto assai più vasto e composito. Riconosciamo alla Chiesa il pieno diritto di partecipare insieme agli altri alla definizione delle nostre identità collettive, ma in parità morale con ogni interlocutore, senza che il nome cristiano giustifichi una pretesa di incontestabilità. Come non essere d'accordo, naturalmente. A noi piacerebbe infatti che le identità, tutte le identità, tutti i soggetti potessero confrontarsi nel rispetto della propria affettività, del proprio vissuto, della propria sapienza, senza essere ridotti a problemi neutri, senza corpo e senza nome, da contrabbandare per una manciata di voti. E qui ci fermiamo perché la cosa è piuttosto corposa e quindi chiediamo ad Annalisa di farci sentire un po' di musica. Sì, allora, dedicata proprio a te, sì. A me? Sì. Umarona, che bello. Vedi un po' se ti piace, insieme a te non ci sto più. Che perfetta, ti ringrazio, mandala pure. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua chi se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara dove io berrò. Io cerco posti per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò devi sorridermi se puoi. Gli appuntamenti. Organizza anche quest'anno i mercoledì al pub solo donne, a partire dalle 20:30 e a partire dal mercoledì 12 ottobre al Gargà, via Palazzo di Città 58, zona Bari Vecchia. Se volete informazioni abbiamo un cellulare 340 73 37 697 oppure una mail bari@arcilesbica.it. E dal 18 al 24 ottobre a Firenze si terrà la 27esima edizione del Festival Internazionale di Cinema e Donne dal titolo Ma l'amore no. Alcune anticipazioni sul programma: il cinema delle donne contro le ragioni della guerra permanente, un cinema che si insinua nella società di oggi ad ogni latitudine per spiegare come l'origine del conflitto stia nell'amore e nella sessualità, sottoposte a tutti i tipi di condizionamento, censure, interdetti tra religione e mercato. Che parla di non amore mentre parla d'amore. Dalla Slovenia ci sarà anche un cult horror lesbico di Maja Weiss Varumeje, che si chiamerà Guardian of the Frontier, e dall'Ungheria un trascinante Bonnie e Clyde. Per avere informazioni potete contattare il sito laboratorioimmaginedonna.it. E ancora prosegue il giro della mostra Donne Manifeste, mostra dei manifesti dell'UDI e tavola rotonda sul lavoro femminile. Questa volta il 27 ottobre, proprio con la tavola rotonda sul lavoro femminile, sarà a Bologna, Palazzo dei Notai, via dei Pignattari 1. Dal 15 al 30 ottobre si potrà vedere questa mostra tutti i giorni, dalle 10.30 alle 18.30, l'ingresso è gratuito. L'occasione è data dal 60° anniversario dell'associazione dell'UDI e bolognese e nazionale, e insieme all'associazione nazionale e alla rete regionale Archivi UDI, soprintendenza per i beni librari e documentari della regione Emilia-Romagna, provincia e comune di Bologna, con ancora il centro di documentazione delle donne e l'associazione Orlando. Questi manifesti riguardano un ampio periodo, appunto 60 anni, dal 1944 ad oggi, e quindi ci sarà anche dibattito, eccetera, eccetera. E allora, il 24 ottobre alle 15, presso il Palazzo Marini, Sala delle Colonne, a Roma, in via Poli 19, le parlamentari del Forum dei Parlamentari Pacifisti, l'onorevole Elettra Deiana di Fondazione Comunista e Silvana Pisa di IDS, presentano La pace, una sfida per l'Unione, il nemico a geometria variabile. Si tratta di un incontro a cui sarà presente anche una rappresentante dell'associazione Rawa per i diritti delle donne afghane, il cui nome è Sahar Saba. Ed ancora andiamo alla prima festa della stagione di Azione Gay e Lesbica, che si terrà di Firenze, naturalmente, che si terrà venerdì 28 ottobre dalle 22.30 in poi all'auditorium FLOG via Mercati a Firenze, come dicevamo. C'è anche la presentazione, le primarie, per informazioni 055 22 0250, oppure c'è naturalmente un sito info@azionegayelesbica.it. E un appuntamento di cinema a Torre del Lago a Lucca, tutti i venerdì sera dalle 21.30 in poi ci sarà la seconda sessione di L World, un appuntamento firmato Mamma Mia e dedicato solamente al pubblico femminile. Quindi dalle 21.30 in poi, per avere informazioni potete contattare il sito www.mamamia.tv oppure chiamare il numero 389 62 62 642. Ed infine vi ricordiamo una data che per noi è particolarmente importante, perché è un tema di cui ci siamo lungamente occupate, che ci sta molto a cuore, su cui cerchiamo sempre di fare un'azione di sensibilizzazione e di protesta insieme. Ed è la giornata contro la violenza sulle donne, che sarà il 25 novembre 2005. E per preparare questo grande evento ci sarà un'asta di autofinanziamento con raccolta di fondi per incontri, soprattutto con le donne irachene, che è il tema precipuo di quest'anno. 13 ottobre 2005, quindi l'asta di autofinanziamento, ore 20.30, alla Salone Luca Rossi, Associazione Culturale Punto Rosso, via Morigi 8, Milano. Questa sarà la prima asta, appunto, per organizzare questa giornata, che sarà una giornata nazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, ve lo ricordo. Ciò detto, noi vi salutiamo tutti, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, vi abbraccio e vi aspetta per le prossime trasmissioni, da Annalisa, Monica e Rosina. Ciao. Arrivederci, ciao! So low as only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. The tears that drip from my bewildered a bittersweet romance. You're still in my hopes, you're still on my mind, oh. And even though I manage on my own, my heart is low, my heart is so low,